Ad alta voce, Tommaso Ragno legge Il conformista di Alberto Moravia. Sesta puntata. Marcello aveva per compagno di banco uno dei suoi tormentatori, un ragazzo a nome Turchi, il più vecchio e insieme il più ignorante della classe. Era il solo che, per aver preso alcune lezioni di pugilato, sapesse tirar pugni a regola d'arte. Il suo viso duro e angoloso, dai capelli tagliati a spazzola, dal naso camuso e dalle labbra sottili, affondato in un maglione da atleta, pareva già quello di un pugilista di professione. Turchi non capiva nulla di latino, ma quando nei crocchi, fuori dal ginnasio, per strada, alzando una mano nodosa a togliersi di bocca una piccolissima cicca e aggrottando le molte rughe della fronte bassa in uno sguardo di autorità sufficiente, dichiarava: «Per me al campionato vincerà Colucci», tutti i ragazzi ammutolivano pieni di rispetto. Turchi, che all'occorrenza poteva dimostrare, prendendosi il naso tra le dita e spostandolo da una parte, di avere il setto nasale rotto come i veri pugilisti, non si occupava soltanto di pugni, ma anche di pallone e di qualsiasi altro sport popolare e violento. Verso Marcello, Turchi manteneva un contegno sarcastico, quasi sobrio nella sua brutalità. Era stato appunto Turchi, due giorni prima, a tenere le braccia a Marcello mentre gli altri quattro gli infilavano la gonnella. E Marcello, che se ne ricordava, credette quel mattino di aver finalmente trovato una via per conquistare quella sdegnosa e inaccessibile stima. Approfittando di un momento che il professore di geografia si voltava a indicare con un suo lungo bastone la carta d'Europa, egli scrisse in fretta su un quaderno: «Oggi avrò una rivoltella vera». E poi spinse il quaderno verso Turchi. Costui, nonostante la sua ignoranza, era però, per quanto riguardava la condotta, un alunno modello. Sempre attento, immobile, quasi tetro nella sua inespressiva e melensa serietà, la sua incapacità ogni volta che era interrogato di rispondere alle più semplici domande meravigliava profondamente Marcello, il quale si domandava spesso che cosa mai pensasse durante le lezioni e perché, se non studiava, fingesse tanta diligenza. Ora, come Turchi ebbe veduto il quaderno, fece un gesto impaziente, quasi a dire: «Lasciami in pace, non vedi che sto ascoltando la lezione?» Ma Marcello insistette con una gomitata. E allora Turchi, senza muovere la testa, abbassò gli occhi a leggere la scritta. Marcello lo vide prendere una matita e scrivere a sua volta: «Non ci credo». Punto sul vivo, si affrettò a confermare, sempre scrivendo: «Parola d'onore». Turchi, diffidente, ribatté: «Che marca è?» Questa domanda sconcertò Marcello. Tuttavia, dopo un attimo di esitazione, rispose: «Una Wilson». Egli confondeva con Weston, nome che aveva sentito fare appunto da Turchi qualche tempo addietro. Turchi subito scrisse: «Mai sentita nominare». Marcello concluse: «La porto a scuola domani». E il dialogo improvvisamente finì, perché il professore, voltandosi, chiamò ad un tratto Turchi, chiedendogli quale fosse il maggior fiume della Germania. Al solito, Turchi si alzò in piedi e, dopo una lunga riflessione, confessò senza imbarazzo, quasi con lealtà sportiva, che non lo sapeva. In quel momento la porta si aprì e il bidello si affacciò ad annunziare la fine delle lezioni. Egli doveva a tutti i costi ottenere che Lino mantenesse la promessa e gli desse la rivoltella, pensò Marcello più tardi, affrettandosi per le strade verso il viale dei platani. Marcello si rendeva conto che Lino gli avrebbe dato l'arma soltanto che egli l'avesse voluto, e pur camminando si domandò quale contegno avrebbe dovuto tenere per raggiungere più sicuramente il suo scopo. Pur non penetrando il vero motivo delle smanie di Lino, con istintiva civetteria quasi femminile intuiva che il modo più spiccio per entrare in possesso della rivoltella era quello suggeritogli il sabato avanti da Lino stesso. Non curarsi di Lino, disprezzarne le offerte, respingerne le suppliche, rendersi, insomma, prezioso. Finalmente non accettare di salire nella macchina se non quando fosse ben sicuro che la rivoltella era sua, perché poi Lino tenesse tanto a lui e lui fosse in grado di fare questa specie di ricatto Marcello non avrebbe saputo dirlo. Lo stesso istinto che gli suggeriva di ricattare Lino gli lasciava intravedere, dietro i suoi rapporti con l'autista, l'ombra di un affetto insolito, di una qualità imbarazzante quanto misteriosa. Ma la rivoltella era in cima a tutti i suoi pensieri. Né d'altra parte avrebbe potuto affermare che quell'affetto e la parte quasi femminile che gli toccava di recitare gli riuscissero veramente spiacevoli. La sola cosa che avrebbe voluto evitare, come pensò affacciandosi tutto sudato per il gran correre sul viale dei platani, era che Lino lo prendesse per la vita come aveva fatto nel corridoio della villa la prima volta che si erano veduti. Come sabato. La giornata era tempestosa e rannuvolata, percorsa da un vento caldo che pareva ricco di spoglie, rapinate un po' dappertutto al suo turbolento passaggio. Foglie morte, cartacce, piume, lanugini, fuscelli, polvere. Sul viale il vento aveva investito proprio in quel momento un mucchio di foglie secche, sollevandole in gran numero molto in su tra i rami denudati dei platani. Egli si distrasse a guardare le foglie che volteggiavano per l'aria sullo sfondo del cielo tetro, in tutto simili a miriadi di gialle mani dalle dita ben aperte, e poi, abbassando gli occhi, vide tra tutte quelle mani d'oro molinanti nel vento la lunga forma nera e lucida dell'automobile ferma presso il marciapiede. Il cuore prese a battergli più in fretta, non avrebbe saputo dire perché, tuttavia, fedele al suo piano, non affrettò il passo e tirò avanti incontro alla macchina. Trascorse senza fretta accanto al finestrino e subito, come da un segnale, lo sportello si aprì e Lino, senza berretto, sporse la testa fuori dicendo: «Marcello, vuoi salire?» Non poté fare a meno di meravigliarsi di questo invito così serio dopo i giuramenti del primo incontro. «Così Lino si conosceva bene», pensò. Ed era persino comico vederlo fare una cosa che aveva preveduto lui stesso di fare, nonostante ogni volontà contraria. Egli proseguì come se non avesse udito e si accorse, con oscura soddisfazione, che la macchina si era mossa e gli veniva dietro. Il marciapiede, molto ampio, era deserto a perdita d'occhio tra le fabbriche regolari e piene di finestre e i grossi tronchi inclinati dei platani. La macchina lo seguiva al passo, con un ronzio sommesso che suonava carezzevole all'orecchio. Dopo una ventina di metri lo oltrepassò, si fermò a qualche distanza, poi lo sportello si aprì di nuovo. Egli passò senza voltarsi e udì di nuovo la voce struggente che supplicava: «Marcello, sali, ti prego, dimentica quello che ti ho detto ieri. Marcello, mi senti?» Marcello non poté fare a meno di dirsi che quella voce era un po' ripugnante. Che aveva Lino da lamentarsi in quel modo? Era una fortuna che nessuno passasse per il viale, altrimenti egli si sarebbe vergognato. Tuttavia, non volle scoraggiare del tutto l'uomo. Eppur oltrepassando la macchina, si voltò a metà a guardare indietro, come per invitarlo ad insistere. Si accorse di lanciare un'occhiata quasi lusinghiera e tutto ad un tratto provò, inconfondibile, lo stesso sentimento di umiliazione non spiacevole, di finzione non innaturale, che 2 giorni prima, per un momento, gli aveva ispirato la gonnella legatagli alla vita dai compagni. Quasi che in fondo non gli fosse dispiaciuto, anzi fosse portato per natura a recitare la parte della donna sdegnosa e civetta. Intanto la macchina si era mossa di nuovo dietro di lui. Marcello si domandò se fosse giunto il momento di cedere e decise, dopo riflessione, che il momento non era ancora giunto. La macchina gli passò accanto senza fermarsi, soltanto rallentando. Egli udì la voce dell'uomo che lo chiamava: «Marcello!» Quindi, subito dopo, il rombo improvviso della macchina che si allontanava. Improvvisamente temette che Lino si fosse spazientito e se ne andasse. Lo invase una gran paura di avere a presentarsi il giorno dopo a mani vuote a scuola e prese a correre gridando: «Lino, Lino, fermati, Lino!» Ma il vento si portava via le parole, disperdendole per aria insieme con le foglie morte in un turbinio angoscioso e sonoro. La macchina rimpiccioliva a vista d'occhio. Evidentemente Lino non aveva udito e se ne andava, e lui non avrebbe avuto la rivoltella e Turchi, una volta di più, l'avrebbe canzonato. Poi egli respirò e riprese a camminare con passo quasi normale, rassicurato. La macchina era corsa avanti non per sfuggirlo, ma per aspettarlo ad una traversa. Adesso infatti si era fermata, sbarrando il marciapiede per tutta la sua larghezza. Gli venne una specie di rancore contro Lino per avere provocato in lui quell'umiliante batticuore e decise in cuor suo, con subitaneo impulso di crudeltà, di farglielo scontare con una ben calcolata durezza. Intanto, senza fretta, era giunto alla traversa. La macchina era lì, lunga, nera, luccicante, con tutti i suoi vecchi ottoni e la sua carrozzeria antiquata. Marcello accennò a girarle intorno. Subito lo sportello si aprì e Lino si affacciò. «Marcello», disse con una decisione disperata, «dimentica quanto ti ho detto sabato, hai fatto fin troppo il tuo dovere, vieni, su Marcello». Marcello si era fermato presso il cofano, tornò un passo indietro e disse con freddezza, senza guardare l'uomo, «non ci vengo, ma non perché sabato mi hai detto di non venirci, perché proprio non mi va». «E perché non ti va?» «Perché sì? Perché dovrei salire?» «Per farmi piacere». «Ma io non ho voglia di farti piacere». «Perché? Ti sono antipatico?» «Sì», disse Marcello abbassando gli occhi e giocando con la maniglia dello sportello. Si rendeva conto di fare un viso crucciato, restio, ostile, e non capiva più se lo facesse per commedia o sinceramente. Era certo una commedia, quella che stava recitando Lino. Ma se era una commedia, perché provava un sentimento così forte e così complicato, mischiato di vanità, di ripugnanza, di umiliazione, di crudeltà e di dispetto? Udì Lino ridere piano, affettuosamente, e poi domandare: «E perché ti sono antipatico?» Questa volta alzò gli occhi e guardò in viso l'uomo. Era vero, Lino gli era antipatico, pensò, ma non si era mai domandato perché. Guardò il viso, quasi ascetico nella sua magrezza severa, e allora comprese perché non aveva simpatia per Lino, perché, come pensò, era un viso doppio, in cui la frode trovava addirittura un'espressione fisica. Gli sembrò, guardandolo, di ravvisare questa frode soprattutto nella bocca. Sottile, secca, sdegnosa, casta a prima vista, ma poi, se un sorriso ne disserrava e rovesciava le labbra, lustra sulla erta e infuocata mucosa di non sapeva che vogliosa acquolina. Esitò guardando Lino, che sorridendo aspettava la sua risposta, e poi disse sinceramente: «Mi sei antipatico perché hai la bocca bagnata». Il sorriso di Lino scomparve. Egli si rabbuiò. Che sciocchezza inventi adesso. E poi, subito riprendendosi con disinvoltura scherzosa: «Allora, signor Marcello, vuol salire nella sua macchina?» «Salgo», disse Marcello, decidendosi finalmente, «soltanto a un patto». «Quale?» «Che mi dai veramente la rivoltella». «Intesi. Vieni. Su». «No, devi darmela adesso. Subito», insistette Marcello, ostinato. «Ma non ce l'ho qui, Marcello», disse l'uomo con sincerità. «È rimasta sabato in camera mia. Adesso andiamo a casa e la prendiamo». «Allora non vengo», si decise Marcello in una maniera inaspettata anche lui. «Arrivederci». Mosse un passo come per andarsene. E questa volta Lino perse la pazienza. «Ma vieni, non fare il bambino», esclamò. Sporgendosi, afferrò Marcello per un braccio e lo attirò sul sedile accanto a lui. «Adesso andiamo subito a casa», soggiunse, «e ti prometto che avrai la rivoltella». Marcello, contento in fondo di essere stato costretto con la violenza a salire nella macchina, non protestò, limitandosi ad atteggiare il viso ad un broncio puerile. Lino, alacremente, chiuse lo sportello, accese il motore e la macchina partì. Per un lungo momento non parlarono. Lino non pareva loquace. Forse, come pensò Marcello, era troppo contento per parlare. Quanto a lui, non aveva nulla da dire. Adesso Lino gli avrebbe dato la rivoltella e poi egli sarebbe tornato a casa e il giorno dopo avrebbe portato la rivoltella a scuola e l'avrebbe mostrata a Turchi. Più in là di queste semplici e piacevoli previsioni il suo pensiero non andava. Solo timore era che Lino volesse in qualche modo frodarlo. In tal caso, come pensò, avrebbe inventato qualche malizia per spingere Lino alla disperazione e costringerlo a mantenere la promessa. Fermo, il pacco dei libri sulle ginocchia, egli guardò sfilare i grandi platani ai casamenti fino in fondo al viale. Come la macchina attaccò la salita, Lino, quasi a conclusione di una lunga riflessione, domandò: «Ma chi ti ha insegnato a essere così civetta, Marcello?» Marcello, non ben sicuro del significato della parola, esitò prima di rispondere. L'uomo parve accorgersi della sua innocente ignoranza e soggiunse: «Voglio dire, così furbo». «Perché?» domandò Marcello. «Così». «Sei tu il furbo», disse Marcello, «che mi prometti la rivoltella e non me la dai mai». Lino rise e con una mano andò a battere sul ginocchio nudo con voce esultante: «Lo sai, Marcello, che sono tanto contento che tu sia venuto oggi. Quando penso che l'altro giorno ti pregai di non darmi retta e di non venire, mi rendo conto quanto si possa essere sciocchi qualche volta, davvero sciocchi, ma per fortuna tu hai avuto più buon senso di me, Marcello». Marcello non disse nulla. Non capiva troppo bene quello che gli diceva Lino, e d'altra parte quella mano posata sul ginocchio gli dava fastidio. Aveva cercato più volte di smuovere il ginocchio, ma la mano non era stata tolta. Per fortuna, ad una svolta, ecco una macchina venire incontro. Marcello finse di spaventarsi e esclamò: «Attento, quella macchina ci viene addosso!» E questa volta Lino ritirò la mano per girare il volante. Marcello respirò. Ecco la strada di campagna, tra le mura di cinta e le siepi. Ecco il portale con il cancello dipinto di verde, ecco il viale di accesso fiancheggiato di piccoli cipressi spennacchiati e in fondo il luccichio dei vetri della veranda. Marcello notò che, come l'altra volta, il vento tormentava i cipressi sotto un oscuro cielo temporalesco. La macchina si fermò, Lino balzò a terra e aiutò Marcello a discendere, avviandosi poi con lui verso il porticato. Questa volta Lino non lo precedeva, ma lo teneva per un braccio, forte, quasi avesse temuto che egli volesse scappare. Marcello avrebbe voluto dirgli di allentare quella stretta, ma non fece a tempo. Come volando, tenendolo quasi sollevato da terra per il braccio, Lino gli fece attraversare la sala di soggiorno e lo spinse dentro il corridoio. Qui, in maniera inaspettata, l'afferrò al collo duramente, dicendo: «Stupido che sei, stupido, perché non volevi venire?» La voce non era più scherzosa, ma roca e rotta, seppure meccanicamente tenera. Marcello, stupito, fece per levare gli occhi e guardare in faccia Lino, ma nello stesso tempo ricevette una spinta violenta, come si getta lontano un gatto o un cane dopo averlo afferrato per la collottola. Lino l'aveva lanciato dentro la camera. Poi Marcello lo vide girare la chiave nella serratura, intascarla e voltarsi verso di lui con un'espressione mischiata di gioia e di rabbioso trionfo. Egli gridò forte: «Adesso basta. Tu farai quello che vorrò io. Basta, Marcello, tiranno, piccola carogna, basta. Fila dritto, ubbidisci e non una parola di più». Pronunziava queste parole di comando, di disprezzo e di dominio, con una gioia selvaggia, quasi con voluttà, e Marcello, per quanto confuso, non poté fare a meno di avvertire che erano parole senza senso, piuttosto strofe di un canto trionfale, che espressioni di un pensiero e di una volontà consapevoli. Spaventato, attonito, vide Lino andare e venire per la cameretta a gran passi, togliendosi il berretto dal capo e gettandolo sul davanzale, facendo una palla di una camicia appesa su una seggiola e chiudendola in un cassetto, spianando la coperta spiegazzata e compiendo, insomma, altrettanti gesti pratici con una furia piena di oscuro significato. Poi lo vide, sempre gridando all'aria quelle sue incoerenti frasi di prepotenza e di imperio, avvicinarsi alla parete sopra il capezzale, staccarne il crocifisso, andare all'armadio e gettarlo in fondo al cassetto con ostentata brutalità, e comprese che con quel gesto, in qualche modo, Lino voleva dare a vedere di aver messo da parte gli ultimi scrupoli. Come a confermarlo in questo timore, Lino trasse dal cassetto del comodino la rivoltella tanto desiderata e, mostrandogliela, gridò: «La vedi? Ebbene, non l'avrai mai. Dovrai fare quello che voglio io, senza regali, senza rivoltelle, per amore o per forza». Così era vero, pensò Marcello. Lino voleva frodarlo come aveva temuto. Sentì di diventare bianco in viso per l'ira e disse: «Dammi la rivoltella o me ne vado. Niente, niente, o per amore o per forza». Lino brandiva tuttora la rivoltella in una mano. Con l'altra afferrò Marcello per un braccio e lo scagliò sul letto. Marcello cadde a sedere con tanta violenza che sbatté la testa contro il muro. Subito Lino, passando improvvisamente dalla violenza alla dolcezza e dal comando alla supplica, gli si inginocchiò davanti. Gli circondava le gambe con un braccio e posava l'altra mano, che stringeva tuttora l'arma, sulla coperta del letto. Gemeva e invocava Marcello per nome. Quindi, sempre gemendo, gli cinse con ambedue le braccia e le ginocchia. La rivoltella adesso era sul letto, abbandonata, nera sulla coperta bianca. Marcello guardò Lino inginocchiato, che ora alzava verso di lui il viso supplichevole, bagnato di lacrime e infiammato di desiderio, e ora lo abbassava a strofinarglielo contro le gambe, come fanno col muso certi cani devoti. Poi impugnò la rivoltella e con una spinta forte si levò in piedi. Subito Lino, forse pensando che egli volesse secondare il suo amplesso, aprì le braccia e lo lasciò andare. Marcello fece un passo nel mezzo della stanza e poi si voltò. Più tardi, pensando a quanto era accaduto, Marcello doveva ricordare che il solo contatto del calcio freddo dell'arma aveva destato nel suo animo una tentazione spietata e sanguinaria, ma in quel momento non avvertiva che un forte dolore alla testa, là dove l'aveva sbattuta contro la parete, e al tempo stesso un'irritazione, una ripugnanza acuta verso Lino. Questi era rimasto in ginocchio presso il letto, ma come vide Marcello fare un passo indietro e puntare la rivoltella, si girò alquanto, pur senza alzarsi, e spalancando le braccia con un gesto teatrale, gridò istrionescamente: «Spara, Marcello, ammazzami! Sì, ammazzami come un cane!» Sembrò a Marcello di non averlo mai odiato come adesso, per quel suo miscuglio ripugnante di sensualità e di austerità, di pentimento e di libidine, e insieme atterrito e consapevole, quasi parendogli di dover compiacere la richiesta dell'uomo, premette il grilletto. Il colpo echeggiò di schianto nella piccola camera e lui vide Lino cadere di fianco e poi rialzarsi, mostrandogli la schiena e aggrappandosi con le sue mani al bordo del letto. Lino si tirò su pian piano, cadde di fianco sul letto e rimase immobile. Marcello gli si avvicinò, posò la rivoltella sul capezzale, chiamò a bassa voce Lino e poi, senza aspettare risposta, andò alla porta. Ma era chiusa e la chiave, come ricordò, Lino l'aveva tolta dalla toppa e messa in tasca. Esitò. Gli ripugnava di frugare nelle tasche del morto. Quindi gli occhi gli caddero sulla finestra e rammentò che era pian terreno. Scavalcando la finestra, girò in fretta il capo, gettando un lungo sguardo circospetto e pieno di paura allo spiazzo e all'automobile ferma davanti al porticato. Capiva che se qualcuno fosse passato in quel momento l'avrebbe visto a cavalcioni sopra il davanzale, tuttavia non c'era altro da fare. Ma non c'era nessuno. E al di là dei radi alberi che circondavano lo spiazzo, anche la campagna brulla e collinosa appariva deserta a perdita d'occhio. Egli discese dal davanzale, prese il pacco dei libri dal sedile della macchina e si incamminò senza fretta verso il cancello. Nella sua coscienza, come in uno specchio, si rifletteva tutto il tempo, mentre camminava, l'immagine di se stesso, ragazzo in pantaloni corti, i libri sotto il braccio, nel viale fiancheggiato di cipressi, figura incomprensibile e piena di sbigottito presagio. Tommaso Ragno ha letto Il conformista di Alberto Moravia. A cura di Anna Antonelli, Fabiana Carobolante, Lorenzo Pavolini, Jacopo De Bertoldi, Chiara Valerio. Regia di Luigi Iavarone. Per riascoltare il programma, radio3.rai.it. Per scaricarlo, raiplayradio.it.